Buonasera cari amici radioascoltatori, Gabriella T alla tela sonora. Questa sera sono soletta soletta, sto ridendo perché sono arrivata in mega ritardo, quindi volevo innanzitutto scusarmi, abbiamo iniziato con 3 minuti, ben 3 minuti di ritardo. Ebbene, sono soletta perché Giulietta è dovuta scappare in Italia e Gentian è occupato con il suo lavoro. Tra l'altro volevo proprio a proposito di Gentian fare una specie di annuncio, perché voi dovete sapere che Gentian, oltre ad essere il nostro regista, è un artista. Quindi per dirvi che il prossimo mercoledì 22 ottobre, dalle 18 fino alle 21, nella sala Fabry al Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre, ci sarà una mostra dell'API, Art Perspective International, alla quale Gentian parteciperà e anche il nostro amico Peter Friis, che ha già partecipato al programma di Brussellando. Quindi vi ricordo, dal 22 e ci sarà quindi questa giornata, diciamo, di apertura, e poi la mostra seguirà dal 23 fino al 24 e poi dal 25 al 26, ripeto, al Centro Culturale di Woluwe-Saint-Pierre. Quindi ringraziamo Gentian e ringraziamo soprattutto José, che questa sera mi sta, come dire, è qui accanto a me in regia. Questa sera è una particolare puntata perché, come voi sapete, la scorsa è stata la prima della tela sonora con Michelangelo Camilliti di Lieto Colle, e abbiamo iniziato così la prima pagina del filo rosso di Anna Maria Farabi. Questa sera invece abbiamo Luca Ariano e Enrico Cerchiglini, che insieme, diciamo, a Radio Alme, quindi alla tela sonora, presenteranno il libro Vicino alle nubi sulla montagna crollata. Questo libercolo, che è molto bello a vedersi, raccoglie una, diciamo, quasi 200 pagine di poesie, quindi un'antologia, ma un'antologia un pochino particolare, perché oltre a essere curata da due persone straordinarie, che sono appunto Luca Ariano e Enrico Cerchiglini, editata da Campanotto Editore, che ci tengo quindi a ricordare. Dicevo, è un'antologia che si dedica un pochino a quelle che sono le tematiche della nostra terra. E sì, perché ci sono dei poeti che, oltre a scrivere di amore, di passione, di dolore, di sofferenza, si preoccupano delle sorti della nostra terra. Quindi diciamo che l'introduzione è molto bella di questa antologia, ma avendo la possibilità di avere così Luca Ariano e Enrico Cerchiglini presto in diretta, forse lascerei a loro il compito di spiegare anche l'idea del perché. Soltanto alcuni dati che vorrei invece ricordare, perché quando si parla di cifre, di numeri, anche se siamo in tema di poesia, le persone sono sempre toccate, il loro cuore quindi reagisce. Quindi riprendo una parte di quella che è l'introduzione, Una terra di canti e disincanti, per dirvi questo. Ora la temperatura in Italia è aumentata 4 volte di più che nel resto del mondo, 1,4 gradi negli ultimi 50 anni, mentre la media mondiale è di 0,7 gradi nell'intero secolo. Già ora le piogge diminuiscono, 5% nell'ultimo secolo. Oggi ci sono 14 giorni di pioggia in meno ogni anno nel sud. Gli episodi di siccità si moltiplicano, la desertificazione sta diventando un problema non solo per la Sicilia, ma anche, pensate un po', per la pianura padana. Aumenta il rischio idrogeologico, soprattutto nell'Appennino meridionale e in parte di quello settentrionale, oltre che nelle Alpi occidentali. Le zone più a rischio sono Calabria, Campania, Liguria e le Langhe. Le risorse idriche, altro, diciamo, nota dolente, i nostri ghiacciai alpini infatti hanno perso metà del loro volume, pensate, e il 30% della loro superficie in meno di un secolo. Il Po, come tutti i fiumi italiani, sta subendo riduzioni progressive delle portate medie, mentre aumenta la variabilità tra piene e secche. Potrei continuare, veramente, è, diciamo, abbastanza pesante, abbastanza squallido anche un po' il panorama, soltanto per dirvi che non a caso il Nobel 2007 per la pace è stato assegnato all'ex candidato presidente degli Stati Uniti, Al Gore. Proprio gli Stati Uniti sono, assieme alla Cina e all'India, i più grandi produttori di gas serra. Non solo, hanno praticamente, questo lo aggiungo io per certo, lo so, hanno praticamente esaurito le loro risorse idriche, quindi non solo consumano di più rispetto agli altri, ma non ne hanno proprio più. Potrei andare avanti a lungo, ma questa sera abbiamo dedicato tutto alla poesia, quindi due parole per per dire il lavoro che Luca Ariano e Enrico Cerchiglini hanno così portato avanti curando questo bellissimo libricino. La poesia, i linguaggi, le cose, le parole, l'evento. L'invettiva è un genere piuttosto particolare. Essa consiste in un testo che aggredisce con ira o con tagliente sarcasmo persone o istituzioni. Come tale, essa può presentarsi non solo in forma versificata, ma anche in prosa. E va anzi precisato che l'invettiva non compare necessariamente come forma autonoma, ma può essere contenuta, e spesso lo è, all'interno di un testo più ampio. Il motivo di ciò è abbastanza evidente. Non è certo facile sostenere per molte pagine il tono aggressivo che si richiede ad un'invettiva. Pertanto, quest'ultima tende ad essere un testo alquanto breve, oppure un passo contenuto entro un'opera più vasta. L'invettiva più famosa della nostra letteratura è forse quella che si legge nel canto 33esimo dell'Inferno della Divina Commedia di Dante. Essa fa parte del celeberrimo episodio del conte Ugolino della Gherardesca. Questo era un nobile pisano che ebbe grande responsabilità nel governo della sua città, ma in seguito, accusato di tradimento, fu rinchiuso in una torre con i suoi figli e i 3 nipoti, e lì lasciati tutti a morire di fame. Correva voce che tra i reclusi si fossero verificati gli episodi di cannibalismo. E Dante riprende forse questa diceria con comprensibile orrore, ma anche con una severa indignazione contro coloro che avevano impartito una pena così disumana. L'invettiva contro Pisa, la città di Ugolino e dei suoi persecutori, pur così breve, chiude in realtà un lungo episodio, costituito dalla commossa narrazione dei fatti narrati da Ugolino. Nella Divina Commedia, infatti, le anime dei defunti dialogano con Dante. Se mai ci fosse bisogno di un esempio per dimostrare la forza della poesia, ecco che quello di cui abbiamo detto verrebbe alla mente fra i primi. Benché Pisa sia oggi una città tranquilla e sonnacchiosa, per quasi tutti gli italiani essa è indissolubilmente connessa con quella violenta invettiva dantesca. Nel 300 Pisa rivaleggiava contro Firenze, ancora con Firenze. Sotto le graffianti parole del poeta vivono quindi spiriti campanilistici. Dante era un fiorentino e passioni politiche. Ugolino apparteneva alla corrente dei ghibellini, per cui Dante stesso simpatizzava mentre i suoi oppositori erano di parte guelfa. Secondo esempio invece che si vuole ricordare è un testo breve ed autonomo. Io direi che è valido parlarne perché questa antologia, come dicevo, ha le sue basi non soltanto scientifiche ma anche, se vogliamo, storiche, quindi è frutto di una lunga ricerca, e credo che per ringraziare Luca Enrico si debba anche in qualche modo parlare di Vittorio Alfieri. Esso quindi è stato scritto da Vittorio Alfieri ed è un documento assieme politico e ideologico. Occorre ricordare che al tempo in cui Alfieri viveva, il Papa era il sovrano di un regno che comprendeva quasi tutta l'Italia centrale. L'ostilità del poeta aveva dunque origini complesse. Essa nasceva innanzitutto da un profondo sentimento anticlericale, ma era anche frutto di sentimenti patriottici. Inoltre Alfieri manifestava spesso atteggiamenti insofferenti verso i governanti in genere. Si noti la sapiente costruzione retorica del testo. Quindi il tutto per dire che la definizione quindi più semplice ed anche più rudimentale che si può formulare fonico-orale o verbale dell'uomo è questa: il linguaggio fonico è l'insieme delle parole o dei vocaboli. Voi sapete che la tela sonora è stato così un momento richiesto e voluto da Anna Maria Farapi, la quale tra l'altro partecipa alla stesura di Vicino alle nubi sulla montagna crollata, proprio per dare spazio alla parola e dare anche un significato alla parola come suono, come vocalizzo, vocabolo, e proprio l'insieme delle parole che formano quindi le frasi. Il vocabolo detto in maniera meno precisa, quindi parola, è l'elemento atomico del linguaggio fonico ed è costituito da 2 elementi, significante e significato. Significante è costituito dal complesso fonico, il significato invece è il concetto, l'idea oppure l'immagine. Questo per dire che, questo lo aggiungo io, per dire come con le nostre parole, come con l'esercizio quindi che facciamo quotidianamente, noi possiamo in qualche modo influenzare, manipolare, nello stesso tempo dare anche l'immagine di quello che vogliamo dire, quindi la nostra idea. La varia combinazione linguistica dei vocaboli è determinata fondamentalmente dalla varia combinazione razionale dei concetti, quindi da lì poi prende corso il discorso esterno, il discorso propriamente detto. E qui, per andare avanti, spiegare come questa ricerca in fin dei conti si tocca svariati concetti come il messaggio, per esempio, concettuale o razionale o intellettuale, che è, quindi è un messaggio poi di pensiero. Quindi tentativi fatti da molti di interpretare la poesia come un'attività non razionale, oppure come un'attività in cui mancherebbe del tutto la razionalità, a vantaggio esclusivo di altri differenti fattori umani. È importante quindi affermare e sottolineare che la poesia, in primo e principale modo, è un messaggio sostanziato di concetti, giudizi, ragionamenti, ossia un messaggio di pensiero, al quale però si aggiungono spesso messaggi fatti di immagini, sentimenti, passioni, emozioni in genere. Io trovo che questa sia una bellissima, se vogliamo così, interpretazione di quello che è poesia. Spesso i nostri poeti non sanno rispondere, o si trovano spiazzati quando noi chiediamo perché scrivi, perché scrivere poesia, la poesia è ancora di moda. Mi ricordo che fino a qualche giorno fa, quando intervistammo Simone Zanin, appunto la prima domanda fu: perché scrivi poesia se la poesia è ancora di moda? Bene, che altro dire? Che prima di iniziare quindi a percorrere un po' questa bellissima antologia e leggervi magari anche qualche poesia, perché no, di tutti i nostri amici che hanno partecipato, vorrei aggiungere, diciamo, un po' la parte finale di questa bellissima presentazione, scritta da Leonardo Mancino, che appunto vi stavo leggendo, e che menziona Calvino, a me molto caro. La dialettica natura-cultura, cara a Calvino, rischia comunque di dissolversi, ora che l'istinto, come la ragione, vanno radicalmente ridefiniti e la realtà si confonde sempre più con simboli sostituiti, il concreto con l'astratto, in una combinatoria perpetua. La storia e il vissuto paiono allora decisamente separati da quegli spezzoni disarticolati di quotidianità su cui si esercita ormai un'esperienza priva di memoria, disposta quasi a riconoscere nel frammento tracce residuali di totalità. È il contesto di una scrittura senza soggetto. Ma allora, ha senso? E quale il comunicare di fronte alle schegge impazzite di una proliferazione senza regole, abolita ogni dialettica? Ripensiamo appunto per un istante a Calvino e alle sue lezioni americane. Ringrazio Leonardo Mancino, che non conosco. Vi leggo alcune poesie, riconosco alcuni scrittori che hanno partecipato già brussellando, per esempio Matteo Fantuzzi, con la sua poesia Tsunami, che vi leggo subito perché è molto breve, molto molto bella. Ora che questo mare si apre e muove verso terra ed entra nelle case e ingloba tutto, tu che vivi in mezzo alle sterpaglie, che hai fatto delle mura a sabbia dopo le macerie, chiedi al tuo volto sulla superficie come vivere e quante colpe ci siano state necessarie. E poi vi leggo anche quella di Anna Maria Farabi, che mi piace molto. Le cose stanno così, madre. Abbiamo perso le stagioni, incatramando gli orti, anche quelli interiori. I ghiacciai si sciolgono. Si scioglie anche la pietra di Saint-Victoire, il quadro giallo di Vincent, lo specchio di Alice dentro cui non passa più io. Leggici nei polmoni cosa abbiamo fatto dell'aria. Pesci ed uccelli improvvisamente scoppiano, si rovesciano tutti gli animali dell'arca, quasi capovolta. Manca Noè, manca un filo con cui tessere memoria e responsabilità nell'eredità dei quattro elementi. Manca un vaso femmina dentro cui immergersi e rinascersi riconoscendoti. Il vento svuota una tempia dopo l'altra e chiacchiera in ogni bocca. Anche in quella dei poeti che illanguidiscono senza pane limpido e fuoco liquido nel sangue, nel canto, nel vino, mentre creano tende di carta e tornei durante il loro esodo. Di questo non piango, perché attraverso e vivo ancora, con insistenza ancora, imparando dall'alba, l'alba in me permane tutto il giorno e nella notte ruota i suoi chiarissimi rossi, i suoi chiarissimi tuorli. Scrivo ormai solo sui palmi dei miei piedi. Mentre ti cammino, non insegno a nessuno il mio non verbale alfabeto. Insisto ancora a leccare con la mia lingua il mio abisso. Insisto ancora, tramandando l'alba, nel donare questa lingua e questo mio abisso. Ecco, io direi, pregherei quindi a José di mandare un po' di musica, perché io a questo punto mi metto in contatto con Luca e poi lo intervistiamo in diretta. Eccoci, carissimi radioascoltatori, sotto la, diciamo, la musica, con le note bellissime di questa bellissima musica di Mario Bellavista, che ringraziamo, e il nostro amico che ormai già da tempo conosce la tela sonora e ha così inviato il suo CD. Ma abbiamo Luca con noi in radio. Luca, mi senti? Sento. Ciao, buonasera. Allora, Luca, finalmente, guarda, questa sera dicevo appunto ai nostri amici radioascoltatori che io, Gabriella T, sono in radio sola soletta insieme a José, e Gentian invece Giulietta sono impegnati per motivi artistici in Italia e qua a Bruxelles, ma sempre una mostra. Quindi volevamo un attimino con te, per la seconda puntata della tela sonora, parlare un attimino di questa antologia, che è un lavoro molto molto bello, che è stato curato da te e da Enrico Cerchiglini, che poi contatteremo subito dopo per l'intervista. Riconosco fra questo, diciamo, fra gli autori delle poesie tantissimi nomi che appunto mi suonano cari perché hanno già partecipato a Bruxellando. Tu stessa hai partecipato a Bruxellando, quindi cogliamo l'occasione per salutare i nostri amici del programma Bruxellando, e chiediamo invece a te di raccontarci un po' del perché la poesia, del perché questa antologia, e del tuo anche, se vogliamo, impegno, della tua passione per tutto ciò che tocca la problematica ambientalistica, quindi il cambiamento climatico, l'inquinamento. Ricordiamo che a Bruxellando tu portasti l'antologia, quella famosa antologia di bitume d'intorno, giusto? Sì, esatto. Allora, ti lascio la parola, perché credo che sia un'opportunità unica averti in linea, e veramente cerca un attimino questi due concetti, poesia e ambientale, come sei riuscito ad accostarli, e il perché di questa antologia Vicino alle nubi sulla montagna crollata. Ma ecco, diciamo che io ho sempre scritto negli ultimi anni poesia civile e ambientale, proprio perché appunto io ho un po' la fissa della protezione civile, ma anche dell'ambiente, perché secondo me è un tema a noi molto caro. Infatti è di questi giorni la polemica dell'Italia con la Comunità Europea. Sì. Secondo me è folle questa proposta dell'Italia di non diminuire le emissioni di CO2. Ecco, visto appunto come sta andando il clima, insomma, siamo a ottobre che sembra di essere a giugno, oggi mi segnala 28 gradi qua, secondo me non è normale questo, ed è dovuto anche all'inquinamento e alle varie emissioni. Comunque, tornando all'antologia, l'idea l'ha avuta Enrico Cerquiglini, poi vi spiegherà lui bene come ha avuto l'idea. Lui fa parte di un comitato ambientale contro la centrale a carbone, comunque non voglio anticipare nulla, poi le parlerà lui. D'accordo. E appunto io e lui eravamo in contatto, sapeva appunto il mio modo di fare poesia, anche il mio impegno civile, mi ha chiesto se gli dava una mano, oltre a contattare i poeti, anche insomma a creare questo manifesto poetico e a portare avanti il lavoro assieme. Io ho citato con molto piacere, perché è una cosa in cui credevo molto e credo ancora molto, in questa antologia che comunque sta andando bene, ecco, ha una buona diffusione, mi dicono anche buone vendite da parte dell'editore, e abbiamo fatto molte presentazioni in Italia, in varie regioni, e ne faremo ancora per tutto l'anno e anche nel 2009. Quindi ecco, secondo me, anche appunto secondo Enrico, è molto molto importante oggigiorno fare poesia civile, fare poesia sull'ambiente, perché appunto è un tema secondo me talmente delicato, e non è vero appunto, come dice la Presi Giacomo oggi, che è un tema antieconomico. Secondo me appunto, come dicono alcuni economisti, mi pare Rifkin, non vorrei dire il nome sbagliato, la terza rivoluzione industriale potrebbe essere appunto una rivoluzione ambientale, cioè l'investire su energie alternative, che potrebbe migliorare la qualità della vita, e quindi, diciamo, in maniera un po' brutale, anche il profitto non verrebbe meno. Ecco, secondo me è una scusa di molti governi, anche di molte industrie, non vuole investire in questo. E poi la salute secondo me è fondamentale per tutti. No, No, interessante quello che dici, perché efficienza e quindi costi e benefici, perché no, anche per il nostro ambiente, quindi non soltanto un approccio emotivo, passionale quasi di questi battaglieri, ma perché no, appunto, una visione più razionale e nello stesso tempo rispettuosa nei confronti di quella che poi è la terra che ci accoglie e ci dà da vivere. Ma dicevamo, poesia, perché tu sai che la tela sonora è nata da quest'idea di Anna Maria Farabi di dare più spazio alla poesia. Quindi, se vogliamo, questa sera abbiamo l'opportunità di unire due momenti, perché spesso si leggono articoli, romanzi sull'ambientale, ma la poesia che tocca questo diciamo concetto non è facile incontrarla. Eppure io vedo in questa antologia parecchi scrittori. Quindi non è vero che c'è, se vogliamo, un senso di abbandono e la poesia è irrazionale. No, abbiamo detto prima nella presentazione di questa bellissima antologia che c'è un approccio anche razionale di quello che è dare una forma, un'immagine al nostro pensiero, e quindi attraverso le parole di una poesia, perché no, spiegare magari alle persone o suscitare momenti, emozioni che possono in qualche modo aiutare la persona fruente a capire. Allora, come hai raccolto queste poesie? Qual è stata la, se vogliamo, la veste che hai voluto dare? Perché io vedo ci saranno 30-40 nomi, cioè magnificano, sono tutti in ordine alfabetico. Il primo è Sebastiano Aglieco e l'ultimo è Lucio Zinna. Raccontaci un po', Luca. Sì, anche, no, anche di più, della verità, sono 87-88. Ah, bene. Eravamo dati un limite massimo di 100, però insomma, siamo scesi a meno di 80, perché l'idea era di coinvolgere il più possibile, cioè non voleva essere un'antologia critica letteraria, se no ovviamente insomma questi sono stati 10, era proprio un'antologia, certo, di impegno civile, quindi volevamo coinvolgere il più poeti possibili, però ovviamente secondo me, secondo noi, anche poeti interessanti e bravi, ecco, non abbiamo scelto a caso i poeti. No, no, infatti no. Poeti che avessero una sensibilità verso l'argomento, pur avendo stili diversi, come avrei potuto notare leggendo l'antologia, sono poeti che hanno stili molto molto differenti tra loro, alcuni in dialetto, altri anche scrivono in italiano, chi più sperimentale, chi più lirico. E noi ovviamente non abbiamo chiesto una poesia per forza a tema, se ce l'avevano benissimo, se no ci bastava anche solamente una testimonianza del poeta. Invece neanche a farlo apposta hanno mandato proprio poesie tematiche, o che hanno scritto ad hoc ma con forza e sensibilità, oppure che avevano già scritto in passato nelle loro raccolte. Quindi secondo me c'è un humus, una sensibilità verso l'ambiente, che anche tra i poeti, purtroppo appunto la poesia è poco letta, poco conosciuta, e quindi non se ne parla, però secondo me in questi anni c'è un ritorno alla poesia civile ambientale. Poi la cosa che mi è piaciuta molto di questa antologia è che dopo che è uscita abbiamo conosciuto altri poeti che non conoscevamo, insomma, che ignoravamo, molto sensibili verso questo tema, che ci hanno mandato poesie, che parteciperanno alle presentazioni, eccetera. Questo secondo me è molto importante. Certo, una catena, direi, quindi un chiamare a partecipare, una specie di appel d'offre, io questa parola qui a Bruxelles è assai utilizzata, e quindi perché no manifestare, appunto, dicevamo prima, il significato, il segno della parola. Spesso non si ha il coraggio di dire certe cose, ma se qualcuno inizia e si inizia la catena, poi magari gli altri, chissà, seguono il vento. Io volevo, se tu lo permetti, leggere le persone che vedo qua, che hanno contribuito a questa antologia come testimonianza, e diciamo farò i nomi di quelli che hanno già partecipato al nostro programma, perché 88 non riesco a leggerli tutti. No, allora, il primo, beh, sei tu, Luca Ariano, Cristina Babino, poi vedo Maria Grazia Calandrone, Caterina Camporesi, Fabrizio Centofanti, Enrico Cerchiglini, Matteo Fantuzzi, Anna Maria Farabi, Mauro Ferrari, Antonio Fiori, aspetta che vediamo, ne ho visto un altro, Gian Ruggero Manzoni, Stefano Massari, Alessandro Mosché, Luigi Nacci. Sto andando avanti, sto scorrendo velocemente. La nostra carissima amica Maria Pia Quintavalla, Alessandro Ramberti, che ricordo con grande così amicizia, veramente tenerezza, perché è un uomo eccezionale che lavora tantissimo. Direi che è veramente, insieme a Anna Maria Farabi, non è da, insomma, sono le persone che veramente, guarda, non ti nascondo, li sento praticamente ogni giorno. Massimo Sannelli, un piccolo editore di poesia molto coraggioso, sì, molto, Alessandro Seri, Cristian Sinnicco, e poi terminiamo con Italo Testa. Gli altri, chissà, magari avrò modo così di leggerli piano piano nei prossimi, così, nei prossimi, nelle prossime puntate della Tela Sonora, perché magari parteciperanno al nostro programma. Senti, prima di farti leggere una poesia, perché trovo giusto e corretto che almeno una sicuramente l'avrai più delle altre nel cuore, chiederti, secondo te, perché fare poesia? Poesia è una parola un po' fuori moda, soprattutto in Italia, non si sente. Piano piano le cose stanno cambiando. E il valore della poesia e il valore della parola nella poesia? Ma secondo me il bello della poesia, adesso poesia civile o non civile, è anche la libertà dello scrivere poesia, proprio perché purtroppo la poesia è un gioco forte, è diventato un genere di nicchia, poco letto. Ho notato in questi anni, non solo leggendo, ma conoscendo poeti, che ci sono meno, diciamo, autocensure tra i poeti, c'è più libertà di scrivere, più sincerità rispetto al narratore o saggistica, perché hanno un circuito diverso, e secondo me la poesia è molto importante appunto per questo, perché può sembrare apparentemente più difficile da leggere, ma in realtà è molto molto più diretta, e secondo me una poesia che può essere d'amore, lirica, civile, apre orizzonti inimmaginabili. Cioè, una poesia magari, cioè, civile, troviamo quella che possiamo trovare in un saggio di 200 pagine, ovviamente sintetizzato, però ci dà degli input e poi aprire tantissime altre finestre. Quindi io penso che la poesia è nata con l'uomo, e fin quando ci sarà l'uomo, secondo me, deve esserci ed è necessario che ci sia. Benissimo. Senti, io nell'introduzione ho letto l'invettiva, quindi ho parlato di Dante, quindi nel 33° canto dell'Inferno, sì. E tutto il discorso, appunto, tutta così l'approccio, se vogliamo, che all'epoca fu straordinario. Dante riuscì attraverso la poesia, perché poi la Divina Commedia, i versi della Divina Commedia non erano altro che probabilmente una anche denuncia di quello che stava avvenendo nella propria città, e sotto, diciamo, questa fantomatica, o comunque questa storia bellissima di un amore, no? che conduce Dante attraverso le varie cantiche, Dante, appunto, dicevo, riesce a parlare di tutto, perché, insomma, se vogliamo, riuscì veramente nella Divina Commedia a presentare quelli che erano, che sono ancora tutt'oggi, i nostri difetti, i nostri egoismi, il potere, il successo, l'ego. Allora, come in questa antologia sei riuscito a far capire ai poeti che hanno partecipato, e se ci sei riuscito, a scrivere non per esaltare il proprio ego, ma per esaltare, se vogliamo, Madre Terra e tutto e l'ambiente che ci circonda? Ci sei riuscito? Hai avuto difficoltà? Come? No, per quello, nel senso che, voglio dire, poi ogni poeta ha una sua identità, e ci mancherebbe, un altro non era certo un intento di influenzare, era di sensibilizzare, e questo, secondo me, ci siamo riusciti, diciamo, in parte. Comunque la cosa è avvenuta perché poi, appunto, come dicevo prima, molti molti poeti ci hanno manifestato testimonianze, e il nostro scopo era anche quello di organizzare presentazioni dell'antologia fatte dagli stessi poeti in varie parti d'Italia, presentazioni che non fossero proprio in semplici librerie come se fosse un qualsiasi libro, ma anche magari in luoghi particolari, come possono essere, non so, le discariche, un esempio, oppure vicino a termovalorizzatori, o a luoghi particolarmente inquinati, o anche a parchi, per esempio, parchi naturali, ecco, che fosse appunto un movimento, ecco, il nostro piccolo movimento poetico civile, in cui ogni poeta si sentisse quasi autore anche lui dell'antologia stessa, ecco. Ottimo. In questo momento siamo riusciti in parte. Senti, il prossimo passo non potrebbe essere andare presso le amministrazioni, quindi delle varie città, e proporre di lavorare a contatto con i tecnici, con gli ingegneri, gli architetti, gli urbanisti, le persone che quindi sono preposte insieme alle varie amministrazioni a pensare e al governo delle città. Quindi come avvicinare queste persone? Perché sensibilizzare il popolo, il civile, è importante, d'accordo, ma in fin dei conti chi comanda, quindi chi ha il potere decisionale, sono, se vogliamo, le amministrazioni. il potere politico. Quindi hai in previsione un approccio più, se vogliamo, invasivo, e quindi cercare di entrare in contatto con queste personalità per cercare in qualche modo di stuzzicare, di curiosare, di cercare di trovare anche soluzioni diverse, oppure per il momento è piuttosto letterario il tuo lavoro? Ma di la verità il lavoro non è nato con l'intento di essere appunto solo letterario, ma in primis di oltre che sensibilizzare anche di poter dare una marcia in più. La cosa è molto difficile, non tanto da parte nostra, perché qua nessuno di noi è tecno, né io né Enrico, è secondo me, secondo noi, anche una certa, scusate, sono un po' affreddato, una certa opinione pubblica un po' addormentata, e anche molte persone poco sensibili all'argomento. Mi capita spesso insomma di vedere molte chiacchiere sull'ambiente, ma poi all'atto pratico venir meno, anche di molti amministratori che magari si fregiano di fare politiche ambientali. Scusa, sì, certo. Non c'è più la metà stagione, mi sono raffreddato. Fa troppo caldo, come dicevi prima. Esatto, fa troppo caldo. e quindi vedo appunto molte belle parole, però nei fatti le stesse amministrazioni le vedo poco reticenti a collaborare o a cercare di fare qualcosa più nel concreto. Il nostro obiettivo è anche quello, insomma, potendo di creare una rete di movimenti civici anche, okay, per poter dire la nostra. Enrico già nel suo piccolo in Umbria lo fa, ecco, poi vi racconterà lui cosa sta combinando giù e qualcosina cerca di fare. Però secondo me la cosa molto dura è fare in modo che le persone siano sensibili, perché oggi ci rendiamo conto che non solo sono ambienti, ma un po' su di tutto, spesso la gente sembra che si faccia scivolare tutto addosso, le cose più gravi ma sempre come se fossero di notizie da reality show. Ok, è molto grave. Senti, hai voglia di leggermi una poesia, così poi ti saluto e do modo in regia poi dopo di passare un po' di musica, così io mi metto in contatto con Enrico. Va, c'è benissimo, qualcosa che vuoi? Sì, leggi tu quello che vuoi. Se mi dai la pagina ti seguo. Cosa? Ti seguo sull'antologia se mi dai la pagina. Sì, sì, pagina 61. Vi leggo una poesia secondo me molto bella, uno dei poeti che vediamo mi un po'. Più. Ah, bene. Carmine De Falco, un poeta molto giovane, secondo me già maturo, e sono curioso di vedere in futuro cosa scriverà. Un poeta civile con una sua personalità già forte, un poeta napoletano tra l'altro, e quindi insomma vive in una zona abbastanza inquinata. Sì. Il caglio fresco non va ingerito, ci respirano addosso, sento un fiato che non è mio in aria, che non è dolce, lasciano che i fiori siano contaminati, ci beviamo brucellosi, ritardi, vuoti legislativi e l'amore dei gatti di febbraio. L'oro bianco si è macchiato, si cade sull'Appennino centrale, da fermi, ci si rompe le ossa, a peso morto, fratture scomposte, rotture di polsi, fasce e poi ingessature. Le calle cominciano a sbocciare in anticipo di 2 mesi e mezzo. Dovrei ritrovare il compleanno? Siamo nati tutti un po' prima, qualcuno non è nato. Ci saranno conseguenze sul ciclo della nostra pelle, ma Pomigliano era il tempo della spazzatura accumulata, delle mattine super umide, velate, da un leggero e distribuito stato di fumo, decomposizione e diossina. La gente non vuole inceneritori per poter incenerire? Direi, caro Luca, che hai scelto veramente molto bene. Ringraziamo Carmine De Falco, ringraziamo anche te per aver trovato questa perla, e ragione, è veramente un'invettiva, diciamo, che si conclude decisamente con una denuncia, e anche una denuncia, chissà, io ci vedo in quel question mark, in quel punto interrogativo, perché no, incenerire magari la nostra storia, il nostro Radio Alma, la fréquence méditerranéenne de Bruxelles. Dicevo, incenerire la nostra storia, da dove veniamo, e quindi dimenticarci le nostre origini. Luca, io ti ringrazio, così abbiamo tempo di contattare Enrico, e il nostro viaggio continua, ritorneremo insieme chissà magari in qualche altro momento, in qualche altro programma, teniamoci in contatto. Un grande bacio, un grande abbraccio, grazie. Altrettanto, in bocca al lupo per tutte, grazie mille, ciao, buona serata. Ciao caro, grazie. Ciao. Ciao. Cari amici, eccoci ritornati, la Tela Sonora, Radio Alma 101.9. E venerdì sera abbiamo con noi Enrico Cerchiglini. E Enrico, ci senti? Ciao, adesso sei in diretta, prima eri soltanto al telefono con me, adesso invece sei in diretta. Abbiamo rintervistato Luca, quindi abbiamo circa una 12-13 minuti da dedicarti. E abbiamo parlato dell'antologia, è stato detto del tuo impegno anche nel comitato ambientale e l'antologia Vicino, lo ricordiamo per i nostri amici radioascoltatori, Vicino alle nubi sulla montagna crollata. Io ti ho chiamato in quale città? Dove vivi? Io vivo a Gualdo Cattaneo, in provincia di Perugia. Ah, perfetto, quindi sei tu l'amico. Quindi io ho ricevuto, dovete sapere cari amici ascoltatori, una bellissima letterina di Enrico che mi scrive perché Anna Maria Farabi le disse, appunto gli disse di inviare il suo questa antologia, questo bellissimo libro. E quindi lui mi disse che all'epoca che l'antologia nasceva da una profonda preoccupazione per quanto stava avvenendo in Italia, quindi un disperato grido che, a detta di Enrico, pochi forse possono accogliere e far proprio. Allora, Enrico, cosa ci vuoi raccontare di questa antologia e poi anche della tua bellissima altra opera, Fine attività, Damnatio memorie, che mi hai spedito, io ho letto. Devo dire che ha uno stile completamente differente, è una poesia, non so neanche io se chiamarla poesia, un formato particolare, poesia, racconto, non sono ben riuscito a capire come scrivi, ci sono alcuni pezzi molto belli, quindi adesso ti lascio completamente la parola e decidi te quali sono i tempi che vuoi dedicare all'antologia e invece al tuo libro Fine attività. Va benissimo, ti ringrazio. Di niente, grazie a te. Devo dire che l'antologia nasce da una seria riflessione che è maturata anche in seno al Comitato per l'Ambiente qui di Gualdo Cattaneo, che sta lottando praticamente da 20 anni contro una centrale a carbone che conosciamo tutti benissimo quali siano le conseguenze, e tra l'altro ha una caratteristica che la rende pressoché unica in Italia, è l'unica che è situata in mezzo a delle colline, tra le colline non solo più belle ma anche nella zona del Serrantino Doc qui in Umbria, ed è anche l'unica in Italia che ha i carbonili scoperti, quindi vantiamo qualche piccolo record che sicuramente potremmo evitarci ben volentieri. E abbiamo cercato, anche perché purtroppo il tema ecologico è un tema di cui molti si riempiono la bocca spesso a sproposito, ma che effettivamente non viene quasi mai affrontato. Abbiamo visto anche in questi giorni il crollo delle borse ha fatto letteralmente schizzare i nostri politici in soccorso delle banche, probabilmente in soccorso delle aziende, mentre quando si incomincia a parlare di un'attenzione all'ambiente, alla riduzione di CO2 e di altre emissioni, sembra che tirar fuori anche un solo euro sia uno sforzo che in un periodo di crisi non sia sostenibile, come se l'emergenza ambientale fosse un'emergenza rinviabile. Studi degli ultimi anni ci sembra che dicano tutt'altro, ci sono preoccupazioni serissime non solo per il destino dell'Italia e dei nostri prodotti, ma addirittura per le sorti stesse del pianeta. Io, se Gianluca ha parlato di Vicino alle nubi, credo che non posso aggiungere altro se non che il volume è corredato da una introduzione letteraria di Leonardo Mancino e un'intervista a Paul Connett, che si è occupato del programma Rifiuti Zero, di un brano di Raul Mantini che è portavoce nazionale dei comitati No al Carbone, e di una lettera di Dante Picciano, che è uno tra i più attivi contro il carbone negli Stati Uniti d'America, in Pennsylvania. Per quanto riguarda l'altra mia opera, Fine attività, come diceva Daniela, non so nemmeno io se chiamarla poesia o altro. Volevo spendere due parole sul titolo, Fine attività, Damnatio memoria. Io credo che siamo giunti, e questo è naturalmente un convincimento culturale, filosofico, alla fine della parabola dell'Occidente. Il tramonto Di reggere, sì. Sì. Il gioco anche. Non sa di leggere, non sa di interpretare il mondo, è diventata spesso autoreferenziale. E quindi fine attività è proprio la fine attività dell'Occidente, questo non significa che sia una catastrofe inenarrabile. Probabilmente verranno popoli forse più vitali di noi, certo, capaci di rinnovare questo continente che è giunto alla fine, ma non è solo il continente europeo, ma credo che anche tutto il cosiddetto mondo occidentalizzato che ha raggiunto oramai il capolinea. Certo, senti. La damnatio memoria forse potrebbe essere questo. Ecco, perché hai scelto, te lo posso chiedere, questa bellissima immagine in copertina, questa scomposizione di donna, pensata addirittura per i nostri amici radioascoltatori, è del 1912, l'autore è Luigi De Giudici. Perché hai scelto, se vogliamo, beh, ricorda un po' le donne di Picasso, di Picabia, questa scomposizione, sì, no? È un autore tutto particolare, questo pittore, perché è stato praticamente scoperto nel 98. Nel 98 praticamente non si sapeva che lui avesse non solo partecipato alle avanguardie venete dell'inizio del secolo, ma che addirittura fosse in corrispondenza con Marinetti e altri futuristi. E quindi io mi sono subito innamorato di questa scomposizione di donna, che è anche un po' la scomposizione della figura femminile in senso proprio rigenerante, forse quella carica che è venuta a mancare alla cultura occidentale degli ultimi 50 anni. Ho capito. Mi è piaciuto molto poterlo utilizzare, grazie anche a Angelo De Giudici che mi ha dato la presentazione. Infatti volevo anche ringraziare il professor Angelo De Giudici. E poi subito dopo tu inizi il libro, e devo dire che, te lo confesso, è stato uno dei motivi per cui ti ho spinto anche a parlarne. C'è una frase che mi ha colpito: a coloro che sono nelle parole. Tu sai che la tela sonora è nata per questo, perché Anna Maria Farabi ha voluto uno spazio da dedicare alla parola, per riprendere il possesso della parola e per, se vogliamo, curare l'anima delle persone che stanno anche intorno a noi, che sono a volte prese nelle loro attività, non si rendono conto neanche di quello che fanno e parlano a sproposito. Quindi perché quasi un invito e una dedica a coloro che sono nelle parole, cosa volevi dire? Ma l'essenza stessa dell'essere umano è in ciò che dice. Quindi diciamo che è un significato ambiguo, è una dedica a coloro che bene o male si possono riconoscere nei versi, ma credo che sia più un'illusione che altro, e a coloro che sono le parole, a coloro cioè che utilizzano la parola con un senso di responsabilità. Un senso di responsabilità e di coscienza. Molto cioè, bello. Parole che non siano suoni vuoti. Questo certo. È uno dei miei intendimenti. Beh, direi che ti capisco. E poi mi vorrei che tu leggessi, se te la senti, a pagina 13 c'è quella bellissima, io la chiamo poesia, per me è una poesia, che è un po' un viaggio, chi va, chi viene, chi si ferma un attimo e poi va. La vuoi leggere? Sì. Dai. Chi va e chi viene, chi si ferma un attimo e poi va, chi più a lungo soggiorna, chi lascia un graffio, il silenzio, chi allarga le gambe e spelle, chi chiude gli occhi e tace, chi scava, chi riempie lo scavo, chi conosce subito il ghiaccio, chi ride nel sole, chi sale sul treno in movimento, chi scende in di corsa, chi lascia fiori marce, chi marcia in testa, chi arretra, chi attraversa la giornata, chi si arresta all'alba, chi lacrima, chi nitrisce, sbuffa, chi inghiotte, chi sorseggia lentamente un grappino, chi alleva ragni in cattività, coltiva risaie e risate, chi semina, chi si mangia il seme, chi scivola via, chi arranca in pianura, chi respira ambrosia, chi si scioglie negli altiforni, chi vende gli altiforni, chi l'acciaio le bare, chi fuma, chi si sfugge nel fumo, chi va, chi viene, chi conosce amore, il disamore, chi la pioggia, il denaro sporco, chi va, chi viene. Sei bravo, sei proprio bravo e dai l'idea di non so come dire, è come se ci fosse un movimento perpetuo che tocca a tutti. Doveva essere il senso del formicolare dell'essere umano in queste città che somigliano sempre di più a formicai e che purtroppo hanno spesso anche la dimensione del formicai. Ah, ci picchia. Sei molto, come dire, incisivo, sei molto pungente. Senti, un'altra pagina che mi piace moltissimo, anche questa forse è un po', forse troppo lunga. Parlavamo prima con Luca dell'invettiva e lui diceva che l'invettiva, proprio perché esce, se vogliamo, da un momento di rabbia, deve essere un'invettiva rapida, deve essere una stoccata, quasi una stoccata di filetto, no? Di stiletto, scusami. E qui praticamente inizi la pagina così, come la pagina 104. Eccoci a noi, senza infingimento, nulla al verde traendo, disvelati. Scusami, ripeti la pagina? 104. Terra di poeti. Poi appena trovi la pagina mi prendi la parola e vai avanti te. Terra di poeti, santi e navigatori, di lestofanti e standardizzati ominidi. Sì. Vai. Questo ora sei. L'età maglio che venera e l'etame. Te ne adorni e vanti e lo annunci e mangelo che sei, rinutrendone in fiati denti friciati, flatulenti nell'ameno paesaggio d'architetture discaricate e fumante, e mille di cadaveri al ciel mandi incensi. Eccoli i tuoi abitanti, animaletti privi d'ogni ossea struttura, brulicanti, striscianti, adulanti, adusi all'inganno, ipocriti, nel più intimo pensiero, porci angelicati, vomitanti croci e recitanti bestemmie in estasi, pronti a tutto per conquistare il niente, prive di idee e di futuro, odiano la libertà, amano le catene, si torturano le carni e chiamano piacere il dolore. Il banchetto a base di feci e liquami. Adesso ti devo interrompere perché praticamente siamo arrivati alla fine. Ecco, che cosa volevi, cioè, beh, non è difficile capire che cosa vuoi fare quando scrivi così, ma come diceva Luca, i poeti hanno risposto, è stata una catena e quindi una sensibilizzazione. Quindi come intendi procedere adesso? Quale sarà il tuo prossimo passo? E poi ci salutiamo. Da un punto di vista ambientale, noi continueremo le nostre battaglie a tutti gli effetti, cercando di muoverci sia su tutti i versanti concessi dalla legge. E nell'ambito letterario, quest'opera di sensibilizzazione da parte di poeti e letterati che dovrebbero, in un momento in cui tutto è in crisi, anche prendersi la responsabilità di indignarsi, certo, dovremo cercare di continuare quest'opera di sensibilizzazione. E la tela sonora è con voi, quindi io spero veramente di avere ancora spazio nelle prossime puntate per magari invitarvi, e chissà, perché no, invitarvi proprio qua a Bruxelles a parlarne magari in qualche sala, in qualche libreria o al Parlamento. Ti ringraziamo, caro Enrico, e sei stato un tesoro per aver avuto pazienza, aspettare che ti chiamassi, e un bacio da tutti noi, saluti da Giulietta Genti, anche non ci sono perché sono all'estero, e a presto, e un saluto anche ai nostri amici radioascoltatori. A presto, venerdì prossimo.